blood. Night blocks out the heaven like a big black shiny bug. It's hard, soft, shell shining, white in one spot will. It's hard place that I'm living, but I'm doing well, well. The white ice horse melted like a spot of silver well. Its mane went last, then disappeared the tail. My life ran through my veins, whistling hollow well. I froze in solid motion well. I heard those Non si è rotta la radio, non vi preoccupate. Sì, grande, non è successo il classico scherzetto del nastrone che parte a sorpresa durante la trasmissione. Bene, siamo rientrati, 451 frammenti sonori riparte dopo il GR di Radio Popolare Network, trasmissione, ricordiamo, dedicata alle musiche degeneri. Abbiamo aperto la prima parte con Vulcano Weber, poi abbiamo passato il testimone Elio Sharp e Zina Parkins, poi abbiamo percorso le strade di San Francisco, non di San Francisco. Bella questa, sulle strade di San Francisco. Poi abbiamo chiuso la prima parte con Keijiano, che abbiamo mixato con San Francisco, e abbiamo riaperto con chi? Con questo pazzo genio di Alan Licht, personaggio assolutamente geniale nel panorama musicale d'avanguardia, musicista oltretutto anche piuttosto giovane, ha circa una quarantina d'anni, ma che ha iniziato molto giovane la carriera di chitarrista d'avanguardia nei Love Child, con cui ha pubblicato diversi album nei primi anni 90, per poi intorno alla metà degli anni 90, fine anni 90, iniziare la sua carriera personale, portando avanti dei progetti musicali che veramente spaziano da qualsiasi genere, partendo dal noise, ovviamente essendo un chitarrista estremamente rumorista, ma l'avrete notato sicuramente essendo la chitarra in questo brano di apertura della seconda parte sempre lì, graffiante, rumorista, sotto e sopra e a fianco della linea che è stata genialmente manipolata dallo stesso Licht, e chitarrista che si può veramente definire dadaista in tutti i sensi, spaziando appunto tra jazz, l'improvvisazione, l'elettronica e anche la disco, come sentiamo nel brano, abbiamo già sentito nel brano che è ancora in sottofondo la nostra conduzione. L'album in questione è un album veramente splendido, considerato da molti uno dei dischi migliori realizzati da Alan Licht, album uscito nel 2001, Plays Well, per la Crank Automotive, non la Crank che conosciamo, Cranky, la Crank che, sì, che di solito ci capita di attraversare. È un progetto che vede Alan Licht costruire un vero e proprio lavoro introspettivo nel primo brano, dove cerca praticamente attraverso la sua chitarra di realizzare un blues quasi futurista, estremamente elaborato, sperimentale, ipnotico e anche molto sofferto. Invece nel secondo brano, che abbiamo mandato poc'anzi in un estratto, perché il brano dura ben 40 minuti, Alan Licht apre prima di tutto andando a pescare un brano di Capitan Beefheart e lavorandolo e manipolandolo, ma sempre con una maestria e quasi una sorta di interazione con l'autore di partenza, e poi passa radicalmente con questo salto nel vuoto, veramente un salto lasciando quasi il respiro bloccato, dentro un splendido brano del grande Giorgio Moroder, che manipola, ma fino a un certo punto, appunto parlavamo con Max, quasi interagisce, suona con Moroder, utilizzando inizialmente nel brano che abbiamo fatto sentire quel frammento, un estratto del brano, e ovviamente creando un vero e proprio loop su cui lui lavora con la chitarra, e poi facendo partire, come sentite sottofondo, il brano stesso, proprio originale, facendo un'operazione assurda. Tutto dal vivo, poi. È tutto dal vivo, perché l'album è interamente dal vivo. Dunque anche il pubblico che sentiamo sotto è il pubblico suo che si esalta in questi passaggi assolutamente equilibristi di Alan Licht, che poi chiude la parte dedicata al brano di Moroder, entra in una sorta di drone rumorista con la chitarra, per poi entrare in un'altra fase quasi operistica nella parte finale con un cantato e una linea con l'organo che vi andiamo soltanto a raccontare. Splendido lavoro che abbiamo voluto appunto omaggiare al massimo facendolo praticamente partire nella seconda parte. Questa poi è la quasi conclusione del sì, pezzo. Sì. Beh, non so. Un bel salto anche qua. Un bel qua, salto, veramente sì. Eccezionale, pirotecnico quasi. Poi tu che sei un grande amante di Moroder, trovarti... Beh, poi suonato veramente in maniera eccezionale, ha creato un loop stupendo. Sì, gran disco. E da Alan Licht a un grande omaggio che vogliamo fare a Fausto Romitelli, è scomparso qualche anno, negli anni zero. Andiamo a prendere uno dei suoi lavori più importanti, An Index of Metals, dove Romitelli, come d'altronde poi fatto già dagli anni 80 in poi, tratta la materia sonora, la fonte sonora, quasi manipolandola, manipolandola quasi dall'interno. Questa è la potenza evocativa anche delle musiche di Romitelli. Anche qua consigliamo decisamente di scoprire, di riscoprire un personaggio che è stato misconosciuto anche dentro un grande circuito accademico, seppure ancora forse si può parlare ancora di grande circuito accademico in Italia, hai ragione. Forse un po' caduto in disgrazia, sì. Per tanti aspetti, dopo i grandi protagonisti del Novecento, Berio, Maderna, Nono, veramente qualcuno ancora in vita, però insomma si è fatto anche decisamente vecchio. Romitelli invece veniva, a proposito di grandi maestri, proprio dalla scuola di Donatoni, quindi un musicista decisamente anche legato, come grande maestro d'altronde, anche a tutte le elaborazioni extra tra virgolette colte. Nella scorsa trasmissione abbiamo trattato un po' la faccenda contemporanea, anzi un po' molto, era quasi tutta incentrata appunto sulle nuove contemporaneità. E Romitelli non ha mai smesso di ascoltare musiche extra sperimentali, accademiche, se questo ancora può significare qualcosa, insomma. Soprattutto è riuscito con una via propria a trattare sia in maniera sperimentale e dentro un ambito che, se vogliamo ancora considerare contemporaneo, possiamo farlo, insomma, per alcuni aspetti è anche vero, però appunto il rock dentro le musiche di Romitelli. Sentirete uno degli inizi più famosi della storia del rock, proprio manipolato da Romitelli in An Index of Metals, ma anche molto mondo legato alle frequenze, molto attento negli anni 90 al mondo del glitch, a quel mondo paratecno di Montami Plateau. E quindi Romitelli veramente che riesce a anche poi tra l'altro a dimostrare un certo interesse nella stessa opera che stiamo per mettere, An Index of Metals, e lavora proprio anche sul video con Paolo Pacchini, insomma un personaggio veramente a 360 gradi, gradazione che non è che amo particolarmente, perché il più delle volte insomma non significa proprio un beato niente. In realtà invece con Romitelli, come sentirete, insomma significa è come, peccato che il personaggio insomma sia scomparso come l'uomo, molto giovane oltretutto, infatti, tra l'altro delle parti tue, Sigoriziano. Un omaggio al bel percorso e importante di Fausto Romitelli. Sentite, divertitevi con questo sorta di viaggio che inizia con un pezzo, un loop, un roof, riff, non un'altra roba. Riff. Celeberrimo, potremmo considerarlo tale. Romitelli. Beh, per molti aspetti si potrebbero avvicinare a Licht insieme a Fausto Romitelli, sì. Perlomeno in questo trattamento di questo gioiello che è An Index of Metals, dove veramente se Licht parte dal suono rock per poi arrivare a un suono avanguardistico che però non disdegna le sue tra virgolette origini, appunto la generazione, però appunto poi viene degenerato il suono ma in una maniera assolutamente creativa e non perdendo di vista quelli che sono comunque gli aspetti anche più fecondi di quello che si è attraversato in gioventù. Per Licht era appunto il rock, per Romitelli la grande cultura del Novecento, della composizione classica contemporanea. Prima abbiamo citato Donatoni come suo grande maestro, ma potremmo anche citare insomma la sua esperienza decisamente importante in uno dei più grandi centri di ricerca sperimentale del mondo, ovvero GRM parigina, dove da 50 anni, 60, si insegna a trattare la musica concreta, il suono elettronico, e in effetti Romitelli riesce in maniera assolutamente brillante, ma proprio molto intensa, a trattare sia l'elettronica sia queste voglie legate a un mondo extra magari che quello del rock. Avete sentito sicuramente il riff celeberrimo, se vogliamo considerarlo tale, o comunque il passaggio di Shine On Crazy Diamond dei Pink Floyd, e poi una chiusura appunto legata probabilmente a qualche gruppo hard rock che non conosciamo, però insomma la timbrica era quella, e in mezzo appunto questa possibilità di sperimentare anche tramite un glitch che però non è glitch nel senso del suono che conosciamo come glitch, ma è proprio l'errore, l'abbiamo sentito prima appunto legato con i Pink Floyd, quindi questo nastro che si blocca, questo tape oppure molto probabilmente insomma piatto che viene fatto stoppare, creando però una musicalità incredibile appunto in questo senso, sposando la filosofia glitch ma non utilizzando gli stessi stratagemmi musicali, entrando proprio anche dentro in questo senso la materia. Prima dicevamo appunto una operazione, quella di An Index of Metal, che è proprio entrare dentro anche il suono metallico, utilizzarli, e in questo caso ad esempio utilizzare proprio ed entrare dentro quello che è il meccanismo del piatto stesso, il suono, quindi una riflessione anche su il trattamento del suono diretto sullo strumento, ma non è soltanto strumento musicale, è anche chiaramente strumento riproduttivo di suono. Eh sì, elemento generatore, no? Sicuramente sì. Questo è il passaggio, oltretutto utilizza Romitelli i glitch oltretutto dei Pansonic, che insomma conosciamo bene come trasmissione, oltretutto sono anche tra i crediti del disco gli stessi Pansonic. È molto molto molto molto avanzato questo lavoro, veramente splendido, e fa pensare insomma che si trovino ben poche notizie. Anche noi francamente in questi anni non è che conosciamo tutto, e siamo sempre a cercare autori italiani sperimentali che realizzano progetti che possono essere assolutamente perfetti per 451, però oggettivamente è abbastanza paradossale appunto che questo autore morto da poco sia stato abbastanza semisconosciuto nell'ambito musicale sperimentale, e basta vedere, se fate una ricerca su internet, quello che si trova su Romitelli, veramente poco. E fa anche un po' rabbia perché ha fatto delle cose splendide, sentiamo tantissime melasse riscaldate da molti autori in Italia, in tutti i settori, dal jazz all'elettronica, alla musica sperimentale contemporanea, quando ci sono invece dei personaggi che lavorano veramente al di là delle categorie, come fa Romitelli, perché esce, seppur parte come esperienza, come scuola, come formazione della contemporanea, ma esce completamente in questi lavori che abbiamo sentito da ogni tipo di catalogazione, per questo è sicuramente degenere. E da il grande Romitelli, che sicuramente andremo a pescare in altre trasmissioni, perché sì. merita sicuramente farlo a meno ascoltare, purtroppo postumo, dato che non c'è più, ma noi continuiamo il nostro percorso nelle musiche de genere e attraversiamo un autore che è assolutamente de genere nella sua formazione, nelle sue strutturazioni musicali, Chris Brown, autore musicista americano che è nato e cresciuto nell'ambito della musica classica, ma poi si è spostato sempre di più verso la musica sperimentale e improvvisativa, e la sua ricerca è cominciata veramente a impazzire, andando a ricercare sperimentazioni all'interno del free jazz, ha cercato e ha studiato e viaggiato per studiare appunto e riportare nelle sue sperimentazioni musicali le musiche indonesiane, indiane, cubane, per poi attraversare negli anni 80 l'elettronica, addirittura costruendo degli strumenti elettronici per appunto realizzare suoni sia concreti che sintetici, ed è arrivato addirittura alla realizzazione di un vero e proprio programma che realizza praticamente delle strutture poliritmiche per il piano, un software vero e proprio che lui ha chiamato Inventions e che spesso lo utilizza in performance dal vivo, creando appunto strutture assurde utilizzando il software collegato al suo pianoforte, una sorta di composizione in tempo reale fatta dalla macchina e riportata sullo strumento. Qui si capisce il personaggio che ha ricercato veramente in tutte le strade possibili e immaginabili stimoli nuovi per la creazione di una sorta di magma musicale assolutamente primordiale, che spesso ha realizzato con grande, grande genialità. E in questo disco che andremo a sentire adesso, Rogue Wave, uscito per la grande Zadig, realizza veramente questo magma incredibile, dove si sente veramente di tutto, ma dentro una nuova forma che realizza appunto un suono completamente differente. Il brano che abbiamo selezionato è un brano proprio costruito sulla manipolazione del pianoforte, con delle variazioni e delle modificazioni al filo logico del brano assolutamente dirompente. Andiamocelo a sentire, Chris Brown da il grande album che adesso mi è saltato. Rogue Wave. Bravo. Thank you.

Beh, notevolissimo. Ci hanno preso nel sacco, ci hanno chiuso subito, non eravamo pronti. Vedi. Daniel Menke, poi d'altronde ci prende così alla sprovvista. D'altronde stava andando veramente in maniera furiosa con il suo piano impreparato, perché d'altronde si è anche inventata questa cosa qua, chiaramente un gioco, una degenerazione del piano, del piano preparato, quello insomma che conosciamo soprattutto per Cage, ma per tanti altri compositori che spesso insomma si sono appunto confrontati con questa modalità appunto dentro il Novecento, sperimentata veramente da grandi compositori. E Menke se ne esce in questi mesi con questo appunto disco decisamente forte per insomma palati insomma abituati a un rumore anche piuttosto fragoroso, mischiato appunto con Chris Brown. Volevamo fare una sorta di opposizione, pensiamo insomma di averla fatta, e come, anche perché Chris Brown poi tutto sommato era anche volutamente così leggero, forse anche un po' ironico. Beh sì, era abbastanza ironico nella costruzione, costruiva appunto questi piani mischiati anche altri suoni in maniera abbastanza delirante e abbastanza sarcastica e ironica, a differenza invece di questo lavoro di Menke, che più cattivo e forse più scuro, anche meno divertito, nemmeno divertente, d'altronde. Anche se godibile dal punto di vista sonoro, perché è un flusso godibile appunto per palati insomma abituati al rumore, al flusso rumorista, sicuramente. Sì, Menke è uno dei personaggi insomma che in questi anni ci ha dato insomma molto, in termini appunto di flussi sonori, molto spesso dedicati appunto a una sorta di dark ambientale. Sì. E con questo lavoro insomma non si smentisce, seppur appunto lavorando su questo piano impreparato, che è una sorta di paradosso per appunto creare quella sorta di degenerazione dentro musiche che già si vogliono degenerate, come le arti degenerate, no? Di memoria insomma in Fausta, per chi sa a che cosa ci stiamo riferendo in questo momento. E Menke appunto gioca in maniera seria, ma appunto sempre di gioco si tratta, non avrebbe sicuramente tirato fuori il piano impreparato per descrivere il suo lavoro, se non fosse appunto per questo senso comunque anche fantastico che dà appunto alle sue musiche, soprattutto in questo disco di grande fascinazione, seppur appunto dentro quel flusso così insomma originale di Menke. E quindi insomma quando vi confrontate con le sue musiche, sapete che insomma andate incontro anche a frastuoni piuttosto duri, oppure sì, a tunnel scuri che portano veramente molti là, anche con il senso appunto di oscurità che dà il nostro Daniel Menke. È abbastanza scuro, è abbastanza neretto. E da Daniel Menke andiamo a trovare una coppia di grandi nomi, nel senso che hanno veramente segnato la musica del Novecento e anche adesso quelli degli anni zero. E partiamo con il primo nome, Keith Rowe è sicuramente un personaggio importante nella scena musicale, che è stato insomma fondatore anche e appartenente al progetto della A&M, che è appunto fondatore anche, dunque, questo collettivo improvvisativo nato nel 1966 e ha iniziato. Ricordiamo con il Garden, certo, A&M. Certo, sì. Certo. E alla fine degli anni 50 lui ha iniziato a sperimentare con delle chitarre preparate, delle costruzioni strumentistiche avendo come riferimento diciamo l'attitudine sperimentativa del grande Marcel Duchamp, e poi per portare avanti, oltre ovviamente al progetto ANM, varie produzioni musicali fino insomma ai nostri giorni. Il disco in questione è intitolato Duos for Doris, che in realtà è la madre dell'altro grande presente appunto in questo progetto, cioè John Tilbury, uscito appunto nel 2003, il 6 maggio 2003 realizzato. John Tilbury appunto è l'altro personaggio importante di questo duo finale, di chiusura di questa serata di 451. Musicista che ha alle spalle anche egli grandissime produzioni musicali, grandissime sperimentazioni, ha iniziato diciamo come album importante ricostruendo e reinterpretando John Cage nel 1975, e poi è andato avanti con varie sperimentazioni all'interno di una contemporanea e di un approccio anche pianistico molto molto personale, molto originale, per spostarsi poi chiaramente in sperimentazioni che hanno attraversato la musica improvvisativa, presente in collaborazioni con un altro progetto che abbiamo anche visto qua a Bologna, Mimeo, ma ha anche lavorato con personaggi come Kate Tippett, Eddie Prevost, e ce ne sono qua da citare. 40 anni di sperimentazione. Appunto. Grande amante chiaramente anche del grande Cornelius Cardio, che ha rifatto anche gli in varie versioni. Dunque un musicista che si è mosso tra contemporanea, sperimentazione in generale, anche elettronica, e anche un jazz più avanzato e più evoluto. Dunque una coppia che insomma parla da solo, e hanno realizzato questo splendido lavoro che è veramente un viaggio, un flusso splendido che noi faremo ascoltare solo in parte, essendo un doppio CD e dunque con tracce anche piuttosto lunghe. Noi prenderemo una traccia, un estratto di una traccia, in particolare una parte mediana, credo, del Kraft, brano, di Kraft. Olaf. La seconda traccia, e appunto ricordiamo ancora il titolo del disco, Duos for Doris, uscito nel 2003. E a questo punto anche salutiamo, no, gli ascoltatori, che dici? Sì, no, se vuoi salutare, io dopo saluto tu. Fai da solo, ricordiamo soprattutto che per coloro che fossero interessati possono andare tra qualche giorno sul sito di 451frammentisonori.noblogs.org per riascoltare o scaricare la puntata di stasera, o avere la possibilità di guardare, di potersi annotare gli album e gli autori che abbiamo messo in questa serata. Ovviamente vi salutiamo sulle note, sul flusso sonoro di Kate Rowe e John Tilbury. Sì, dopo appunto questa presentazione eccezionale, cioè meravigliosa, che è segnata negli annali della radiofonia mondiale. E appunto, buonanotte, vi lasciamo con i due grandi M, Kate Rowe e John Tilbury. Buonanotte Eliseo. Buonanotte Max. Buonanotte, dormiamo qua, diciamo agli ascoltatori, sì, perché abbiamo due lettini che ci utilizziamo per comodità, un po' brutti, però insomma, peccato. Sentiamo il nastrone della radio e ci addormentiamo. Nastrone, ancora sono rimasta negli anni 80, anche agli 80, dai. Ciao. Ciao, buonanotte.